البلاد طردوا الأجداد. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. قالوا لنا سلام آه يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. قالوا لنا قانون دولي يا قانون، العدالي شفنا ولا سلام. لا لا لا لا لا لا لا. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. يا محتل اطلع عربية. Buongiorno Palestina. Nella trasmissione di oggi parleremo di letteratura. Vi leggeremo le recensioni di alcuni libri di tre autori palestinesi, ciascuno dei quali, seguendo una propria narrazione in periodi diversi e con uno stile proprio, ci parla della diaspora palestinese. Vicende tuttora di attualità che ci aiutano a capire le condizioni di vita di un popolo da 70 anni ancora sotto occupazione militare. Gli autori recensiti a cura di Marisa sono Susan Abulawa, Ghassan Kanafani, a cura di Barbara, Salman Abu Sitta. Questo subito dopo la selezione stampa, i cinque articoli scelti e pubblicati dall'Associazione Amicizia Italo-Palestinese. Iniziamo con la rassegna dei fatti di agosto in Palestina, che è stata compilata dal sito The Electronic Intifada, che correda le notizie anche con delle belle immagini. Durante il mese di agosto c'è stata l'ennesima escalation nel territorio di Gaza. Continuano le proteste al confine, che consistono principalmente nel fare confusione notturna e nel lanciare dei palloncini incendiari al di là del confine, palloncini che possono provocare degli incendi nei campi dalla parte israeliana, diciamo vicino alla recinzione. Israele ha reagito con dei bombardamenti, una serie di bombardamenti, e soprattutto con una serie di punizioni collettive contro la popolazione di Gaza, pratiche ovviamente vietate dalle convenzioni internazionali. Questo ha comportato ad esempio il taglio del transito del carburante che alimenta l'unica centrale elettrica di Gaza, quindi praticamente hanno tenuto al buio Gaza per settimane, e anche il divieto di pesca, che già è normalmente molto limitato, è stato completamente vietato ai pescatori di Gaza di uscire con le loro barche. Questa situazione si è risolta il 31 agosto con un accordo che ha messo fine, diciamo, a questa escalation, mediato da Egitto, Nazioni Unite e Qatar. Electronic Intifada sottolinea come questo accordo significa semplicemente un ritorno allo status quo dell'assedio di Gaza, che è già una situazione che tutte le organizzazioni umanitarie definiscono al limite della sopportazione umana e che provoca una crisi economica estrema, che è ulteriormente aggravata anche dal contagio del Covid, che ha ripreso anche a Gaza ad aumentare, come in tutta la regione, e in particolare è stato ormai accertato che c'è un contagio che avviene all'interno della popolazione di Gaza. Finora i casi accertati erano persone che arrivavano dall'esterno. Ormai si contano circa 400 casi con un sistema sanitario di Gaza che, secondo la Croce Rossa, non è assolutamente in grado di trattare più che qualche decina di pazienti. Per quanto invece riguarda la Cisgiordania, anche qui ci sono ovviamente gli ordinari fatti di violenza, della repressione, soprattutto delle manifestazioni di protesta, delle comunità palestinesi contro i piani di espansione delle colonie. Ci sono state due vittime nel mese di agosto, un ragazzo di 16 anni che è stato ucciso dai militari, mentre insieme a un gruppo di ragazzi stava organizzando delle proteste. E un ragazzo di 30 anni che, secondo i militari israeliani, ha cercato di accoltellare un militare alla frontiera. È stata uccisa anche una ragazza di 23 anni a Jenin, che semplicemente stava cercando di chiudere la finestra di casa sua per non far entrare il gas lacrimogeno, questo durante un'incursione dell'esercito israeliano a Jenin. È stata colpita da un proiettile vagante, non è chiarissimo sparato da chi, ma è evidentemente una vittima, di questo ennesimo raid israeliano. Dall'altra parte è stato ucciso anche un soldato israeliano, sempre durante un raid, e è stato accoltellato a morte un rabbino presso una colonia, in Cisgiordania. E si tratta della prima vittima civile israeliana dall'inizio dell'anno. Mentre dalla parte palestinese si contano 25 vittime finora nel 2020. Sempre riguardo la repressione delle manifestazioni in Cisgiordania, ha avuto un certo risalto sulla stampa israeliana e anche internazionale il pestaggio commesso ai danni di un 65enne palestinese, Hairi Hannon, che durante una protesta pacifica presso Tulkarem è stato maltrattato dalla polizia, che lo ha immobilizzato esattamente come George Floyd nelle famose immagini venute dagli Stati Uniti. E questo è successo davanti ai giornalisti. Quindi la cosa ha avuto una certa eco, ce ne parla Mondo Vice, che è un sito israeliano. E ha avuto, diciamo, una grande visibilità questo fatto, soprattutto per lo più in realtà sulla stampa araba. Sempre sulla stampa israeliana è stato dato molto risalto recentemente anche all'indagine che ha finalmente portato in carcere un gruppo di ufficiali e di soldati della polizia di frontiera israeliana che sono ritenuti responsabili di una lunga serie di crimini. Ce ne parla Umberto De Giovannangeli sul sito Globalist, che riporta alcuni articoli apparsi su Haaretz, il quotidiano israeliano, a firma di Gideon Levi e di Alex Leval, che, cosa rara sulla stampa israeliana, hanno descritto nel dettaglio i fatti di cui sono accusati questi militari e soprattutto dando voce alle vittime palestinesi. Si tratta di un gruppo, di una vera e propria associazione a delinquere, un gruppo di militari che erano dediti a violenze e torture sistematiche contro i palestinesi che attraversavano la frontiera, per lo più lavoratori che ogni giorno attraversano la frontiera o cercano di attraversarla per andare a lavorare in Israele, che venivano appunto seviziati e sistematicamente derubati. I militari poi distribuivano tra loro le rendite, diciamo, di questi furti. E ci sono prove schiaccianti perché gli stessi militari filmavano con i telefoni le loro azioni e quindi anche la giustizia israeliana in questo caso non ha potuto voltarsi dall'altra parte come fa di solito. Alcuni di questi filmati sono diventati virali sui social network. Sempre sulla stampa israeliana poi si parla di altre possibili azioni giudiziarie, stavolta a livello internazionale, contro i crimini di guerra israeliani. Palestine Chronicle scrive che il governo israeliano avrebbe stilato una lista segreta di persone che viaggiando in Europa, quindi politici, militari, funzionari dell'intelligence israeliana, che viaggiando in Europa potrebbero rischiare l'arresto da parte della Corte Penale Internazionale, nel caso in cui la Corte internazionale decidesse di iniziare una vera e propria indagine sui crimini di guerra israeliani. Sono ormai diversi anni che la Corte è impegnata in un'indagine preliminare su questi crimini a seguito delle denunce da parte dell'autorità palestinese, cosa che si è resa possibile da quando lo Stato di Palestina è stato formalmente riconosciuto alle Nazioni Unite. E il sito Palestine Chronicle riporta un'analisi giuridica dettagliata fatta da due analisti politici, Dana Farrai e Hassem Halil, che appunto dà le motivazioni dei possibili passi che la Corte internazionale potrebbe intraprendere e delle motivazioni basate sulla legalità internazionale. E il fatto che il governo israeliano prenda molto sul serio questa possibilità è una testimonianza della potenzialità che potrebbe avere l'azione di questa corte. Staremo a vedere, inshallah. E con questo è tutto per questa settimana. La trasmissione di oggi, come preannunciato, è dedicata alla recensione di alcuni libri da me scelti, di cui desidero parlare o farvi conoscere se non li conoscete già. Libri pubblicati di recente, ma anche datati, e capirete perché ve li propongo. Il primo libro di cui vorrei parlare è uscito a giugno del 2020 ed è di Susan Abulawa. Nata da una famiglia palestinese in fuga dopo la guerra dei sei giorni e che ha vissuto i suoi primi anni in un orfanotrofio di Gerusalemme. Vive attualmente in Pennsylvania. Autrice di numerosi saggi sulla Palestina, ha fondato l'associazione Playgrounds for Palestine, che si occupa dei bambini dei territori occupati. Susan Abulawa ha scritto altri libri, di cui Ogni mattina Jenin del 2011, di cui parlerò dopo, e The Blue Between Sky and Water del 2015, tradotto in 19 lingue. Il libro uscito nel 2020, edito da Feltrinelli, è appunto Contro un mondo senza amore. È un toccante ritratto di una donna coraggiosa, la cui coscienza rivoluzionaria rifiuta di sentirsi una vittima. È un contributo femminista nella scrittura palestinese e ha il pregio di darci la consapevolezza che la lotta per la liberazione sessuale e l'indipendenza dal potere patriarcale sono indissolubilmente legate alla liberazione nazionale. Nar, l'eroina del romanzo, compare fin dalla prima pagina, rinchiusa nel cubo, uno spazio di 9 metri quadrati di cemento armato levigato, con sofisticati sistemi di alternanza di luce e buio che fanno perdere il senso del tempo e le destabilizzano l'equilibrio mentale. È stata imprigionata perché è considerata una terrorista, per altri è una rivoluzionaria, per altri ancora un esempio da imitare. Nar è stata anche molte cose, una ballerina, una puttana e ha avuto molti nomi. Ha imparato molto presto che per un cittadino di seconda classe l'amore è solo disperazione. Ha imparato, prima di ogni altra cosa, a sopravvivere. Il romanzo, ambientato sullo sfondo di eventi cruciali della Palestina, la Nakba del 48, l'invasione del Kuwait da parte di Saddam Hussein nel 90, gli accordi di Oslo del 93, la prima e la seconda intifada. Nar, rinchiusa nel cubo, inizia col reinterpretare gli eventi della sua vita. Prova odio per Muhammad, il secondo marito, e tutti gli uomini che l'hanno abusata e sfruttata. Rivaluta le vite della madre, di sua nonna, sopravvissute a due tipi di oppressione, come donne e come palestinesi. Ricorda la figura della ribelle Umm Burak, la donna del Kuwait che lei stessa abbandonata, le vuole bene e le dice di non fidarsi mai degli uomini. La storia di Nahr è un contributo alle centinaia e migliaia di donne senza volto che hanno resistito ai sionisti nella Nakba con armi e soccorsi durante la prima e seconda intifada, dando così significato a vite che altrimenti erano destinate all'invisibilità. Il risveglio politico di Nahr deve molto alla rete di sostegno matrilineare. Facendo narrare a Nahr la sua storia dalla prigione, Abu Lawa dà voce anche alle migliaia di palestinesi della diaspora detenuti come prigionieri politici, così che la cella di isolamento che mina l'identità e lo spirito di Nahr si trasforma in uno spazio di immaginazione critica e di resistenza letteraria. L'incontro con il rivoluzionario Bilal porta a uno scambio dialettico nel processo politico di entrambi e dà forma al loro amore contro un mondo senza amore, appunto. Quando è nel cubo, Nahr gli racconta la propria storia, anche se lui non c'è, ma diventa l'unica sua ragione per uscire da quell'incubo. L'altro libro, sempre di Susan Abu Lawa, di cui vi parlo, è Ogni mattina Jenin, edito da Feltrinelli nel 2011. È la storia di tante e troppe vittime che grazie all'amore riescono a trovare una ragione di esistere. Con un toccante realismo, l'autrice racconta con fine sensibilità la storia di quattro generazioni di palestinesi costretti ad abbandonare la propria terra nella Nakba del 48 e a vivere la desolante condizione di senza patria. Con la voce di Amal, la nipotina del patriarca della famiglia, l'autrice fa rivivere la fuga dalla casa dei suoi antenati di Ain Oud per il campo profughi di Jenin. Conosciamo le drammatiche vicende dei suoi due fratelli, il primo rapito da neonato e diventato un soldato israeliano, il secondo che consacra la sua esistenza alla causa palestinese. Conosciamo anche la storia di Amal, la sua infanzia, gli amori, i lutti, il matrimonio, la maternità e il suo bisogno di condividere tutto questo con la figlia, per proteggerla e tenerla lontana da rischi e pericoli. Le vicende della sua famiglia si intrecciano con quelle della Palestina e diventa simbolo delle famiglie palestinesi nell'arco di quasi 60 anni. Un scenario di vita vissuta con la tragedia dell'esilio, la guerra, la perdita della terra e degli affetti, la vita nei campi profughi in una quotidiana lotta per la sopravvivenza. Non si rintraccia dell'odio nelle parole di Susan Abu Lawa. Lei non cerca i colpevoli, degli israeliani ne parla anzi con pietà, rispetto e consapevolezza. Adesso un piccolo stacco musicale. Riprendiamo con la recensione di altri due libri, questa volta di Ghassan Kanafani, uno scrittore, giornalista e attivista palestinese particolarmente impegnato per la causa del suo popolo, scomparso nel 1972 a seguito di un attentato incendiario in cui perse la vita insieme a una sua nipote sedicenne. All'epoca della sua morte era portavoce del Fronte Popolare di Liberazione della Palestina e l'attentato, si dice, fu ordinato dal Mossad per vendicare il massacro dell'aeroporto di Lod, attacco attribuito al suo gruppo politico. Il suo libro di successo è stato Uomini sotto il sole, edito nel 1963 e adesso in Italia editato da Edizioni Sellerio. È un racconto struggente, sconvolgente, e vorrei iniziare citando un brano del romanzo. Perché non avete battuto sulle pareti della cisterna? Perché non avete chiamato? Perché? E tutto deserto, improvvisamente, cominciò a rimandargli l'eco. Perché non avete battuto sulle pareti della cisterna? Perché non avete battuto sulle pareti della cisterna? Perché? Perché? Perché? Ecco, questo è il disperato grido di una toccante e triste storia dell'emigrazione, della diaspora palestinese, vista, vissuta, sofferta dai tre protagonisti che cercano di fuggire dai campi profughi della Cisgiordania, allestiti all'indomani della perdita della loro terra nel 1948, per arrivare in Kuwait, meta di tanti disperati. Il maturo Abu Qais, il giovane Azad e il ragazzo Marwan attraversano con la complicità di un autista l'inferno del deserto iracheno, rinchiusi dentro un'autocisterna vuota, con il desiderio di entrare anche come clandestini nel ricco Kuwait e trovarvi un lavoro. La vicenda, ben così rappresentata da Canafani in questo libro, rimanda ad avvenimenti di terribile attualità, perché il sacrificio di quei palestinesi rivive ogni giorno in ogni migrante che scappa da guerre e regimi dittatoriali del vicino Oriente e dall'Africa, nella speranza di una nuova vita. Ecco, leggere questo romanzo può aiutare a capire ancora di più la loro difficile realtà e le condizioni disumane che stanno subendo. Un altro piccolo libro mi ha toccato particolarmente ed è Ritorno ad Haifa. La versione araba è uscita nel 1969 e in Italia nel 91 con Edizioni Lavoro. Qui Canafani racconta di due diaspore, quella palestinese e quella ebraica, accomunate da un unico e tragico destino. Said, palestinese di Haifa, torna con la moglie, dopo 20 anni di esilio, nella sua città natale, nei luoghi amati e nella casa, ora abitata da una famiglia di ebrei polacchi scampati ad Auschwitz. Sono anche alla ricerca del figlio, abbandonato nella culla durante la caotica, frettolosa e tragica fuga. Figlio che scoprono essere stato dato in adozione proprio a quella famiglia di ebrei. Essere cresciuto nella cultura ebraica e essere un soldato dell'esercito israeliano. Con straordinaria umanità e forza emotiva, Ghassan Canafani ci porta in questo viaggio, nel presente e nel passato, facendo emergere in modo struggente da entrambi le parti il disagio e la tristezza della condizione vissuta in un ginepraio di sentimenti e passioni umane. Breve stacco musicale. Thank you. Un paio di anni fa il professor Wassim Dahmash, che dirige la casa editrice Edizioni Q di Roma, mi chiese se avevo voglia di fare un esperimento e di tradurre dall'inglese la mappa del mio ritorno di Salman Abu Sitta. Per me era la prima volta, non avevo mai tradotto un libro e quindi era un po' una sfida, un mettersi alla prova, però l'accettai con gioia, perché comunque il lavoro che Salman Abu Sitta sta facendo per il diritto al ritorno dei profughi palestinesi è un lavoro importante, quindi conoscere la sua storia e renderla disponibile in italiano ritenevo che fosse un lavoro importante e quindi mi gettai in questa impresa che mi ha preso un po' di tempo, poi ci sono stati tempi tecnici per la revisione, per la sistemazione, per la pubblicazione e finalmente quest'anno siamo arrivati alla pubblicazione della mappa del mio ritorno da parte delle Edizioni Q. Questo libro, per dirla con le parole di Salman, è la storia del lungo viaggio di un profugo che tenta di tornare a casa. Non ci sono né fucili né carri armati e nemmeno missioni segrete. È semplicemente la ricerca di un diritto da ripristinare, una verità da svelare e un patrimonio perso in un momento di aberrazione storica da riconquistare. È questa l'energia che sostiene tutti i palestinesi nella loro lunga lotta. È quasi un secolo che va avanti, fin dalla Prima Guerra Mondiale, attraverso 3 o 4 generazioni, e non c'è alcun segno che i palestinesi vogliano rinunciare. Questa è la cosa più importante. I palestinesi non rinunceranno mai al loro diritto al ritorno. Per quanto possa essere duro, difficile e possa segnare la loro vita, è una missione a cui non verranno mai meno. Ma torniamo al libro. La mappa del mio ritorno è la biografia di Salman Abu Sitta. Salman aveva 11 anni, nel 48, viveva nella striscia di Gaza e lì comincia la sua storia con la Nakba, che distrusse tutte le proprietà della sua famiglia, lo obbligò a fuggire, e poi una nuova fuga con la Naxa e da lì una serie di viaggi che l'hanno portato in giro, prima per il mondo arabo e poi professore all'università in Canada. In questo libro noi possiamo conoscere la storia di una Palestina che non esiste più, che è stata cancellata dalle incursioni israeliane, è stata cancellata dalle operazioni militari della Nakba e che Israele continua a volere che rimanga cancellata. Vorrebbe che non se ne recuperasse più la memoria, vorrebbe che i villaggi di cui ci parla Salman Abu Sitta rimanessero persi nell'oblio, che nessuno si ricordasse più che quei villaggi erano ricchi, abitati e che i loro abitanti e i discendenti dei loro abitanti, adesso sparsi per il mondo, desiderano ritornare. È una lettura piacevole perché ci porta all'interno della vita quotidiana dei palestinesi, ci porta all'interno della loro lotta per il ritorno e ci fa conoscere il lavoro immenso che Salman Abu Sitta ha iniziato appena in grado di poterlo fare e che sta portando avanti tutt'oggi, che è quello della mappatura dettagliata di tutti i villaggi palestinesi che sono stati distrutti, e attraverso questo la dimostrazione che in Palestina ancora oggi, nonostante le colonie, c'è posto per i palestinesi che sono stati cacciati nel 48 e nel 67. Quindi il suo lavoro è finalizzato a dimostrare che il diritto al ritorno è praticabile e, così come dice nella prefazione, che i palestinesi non rinunceranno mai al loro diritto al ritorno. La fondazione dello Stato di Israele il 15 maggio 1948 è avvenuta sulla base di un preciso piano di pulizia etnica, deciso già molto tempo prima. Circa il 90% della popolazione palestinese fu espulsa dalle proprie terre, dalle proprie case, defraudata dei propri beni, in violazione dei principi della Carta delle Nazioni Unite. Si calcola che dall'inizio dell'applicazione del piano di pulizia etnica nel 1948, quasi 800.000 palestinesi furono sradicati, 531 i villaggi distrutti, 11 i quartieri urbani svuotati dai loro abitanti. Una operazione terroristico-militare considerata dal diritto internazionale un crimine contro l'umanità. Questa tragedia viene ricordata come la Nakba, ovvero la catastrofe del popolo palestinese, mai riconosciuta dai governi israeliani, i quali, fino ad oggi, continuano la loro politica di apartheid. Lo sradicamento forzato e il conseguente furto delle loro proprietà hanno trasformato i palestinesi in una nazione di rifugiati ed esiliati, che continuano a rivendicare il rispetto del loro diritto al ritorno. Ascoltate, fatelo sentire al mondo intero, malgrado la fame, la sofferenza, la macelleria quotidiana. Noi resistiamo, noi vivremo sulla nostra terra. Lo sentite? أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أناديكم أناديكم A seguire ascolterete musiche di Mohammed Assaf in Yalali Yamali, di Arna, Rashid Taha in Yaraya, Tu che parti, e per finire la voce narrante del film Nakba della regista Monica Maurer. Prima di concludere questa trasmissione vogliamo ricordarvi che sul giornale Fuori Binario vi sarà anche questo mese una pagina dedicata ai palestinesi. Con questo gesto, Fuori Binario, giornale degli ultimi, tende una mano agli ultimi del nostro mondo, vilipesi e espropriati dei loro beni, della memoria e della loro umanità. Con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alle 17.30. Inshallah!

Gerusalemme, città santa dei cristiani, musulmani ed ebrei, il cuore della Palestina. La Palestina è un ponte che collega tre continenti, Asia, Africa e Europa. È il centro del mondo arabo, legata all'Oriente come all'Occidente. I palestinesi sono discendenti dei cananei, arameiti e arabi. Ha subito l'occupazione dei persiani, dei greci, dei romani, dei crociati e dei turchi, fino a quando, nel 1920, l'impero britannico impose il suo mandato. In quel periodo l'8% della popolazione era ebraica e possedeva il 2,5% della terra. Nel 1936 il numero dei coloni ebrei ammontava a 380.000 unità, circa il 30% della popolazione. Già nel 1921 la commissione sionista manifestava palesemente i propri obiettivi. In Palestina potrà esistere una sola entità nazionale, quella ebraica. Non ci sarà mai parità tra le comunità araba e ebraica, ma solo una supremazia ebraica non appena la nostra razza avrà raggiunto la maggioranza demografica. Nel 1947 l'ONU decideva la spartizione della Palestina in uno Stato ebraico e in uno Stato arabo, con la concessione del 40% della terra a 1.300.000 arabi e il restante 60% a 500.000 di ebrei. Gli arabi insorgevano contro la ingiusta spartizione, ma l'ondata di protesta si scontrava con la politica delle autorità britanniche che favoriva la creazione di unità paramilitari sioniste e reprimeva l'attività politica degli arabi. Quel progetto di spartizione della Palestina rappresentò un duro colpo per gli arabi che già tra il 1937 e il 1939 avevano pagato un alto prezzo per la loro terra e che ora si vedevano costretti ad affrontare la violenza di 100.000 uomini armati delle forze sioniste. Malgrado i ripetuti attentati dinamitardi, le azioni blitz dei comando di franchi tiratori della Haganah, gli arabi resistevano come potevano per difendere le loro terre. Subito dopo il voto dell'ONU, i britannici annunciavano il loro ritiro dalla Palestina e lasciavano il paese nel maggio 1948. Subito dopo il ritiro dei britannici, i sionisti procedevano all'occupazione dei territori e il 15 maggio 1948 David Ben-Gurion annunciava la fondazione dello Stato di Israele. Sin dal giorno seguente, comando sionisti attaccarono i villaggi palestinesi, lasciando dietro di sé un inferno di fiamme e rovine. La gente fuggiva in preda al panico.